this is something off our album that we ain't played here for a while. It's called Stone Cold Fever. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti. Rain, eccoci qua, le frequenze sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e tutto il resto della provincia. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming e in podcast dal sito www.radiorcs.it. Dall'hard rock americano degli anni 70 a quello inglese della stessa decade, ho ripescato come primo brano Stone Cold Fever dagli Humble Pie, dal disco Performance Rock in the Fillmore del 1971. Sono passati 38 anni da questo album, ma la carica di questo disco rimane poderosa. Voi che ne dite? Ah, questo disco qui, Marco, parlane tu perché a me mi ha devastato il cervello. Io sono ancora tramortito, se devo dire la verità. Allora, la band non la conoscevo, però sicuramente il sound è assolutamente accattivante e trascinante. Mi ricordo un po' quando i Blues Brothers vanno in quel pub e suonano e gli tirano qualsiasi cosa addosso. È un po' diversa la situazione, comunque. Però ci sta, è rock and roll, ti fa muovere, spacca, capito? È giusto. Esibizioni live. Da mia testimonianza posso dire che vi ho visti a Bologna e ho trovato il vostro set davvero trascinante. Come giudicate voi stessi per le performance? Ma guarda, la forza di questa band, la forza di Ren è sempre stata live, lo dicevo prima, senza live non avremmo mai fatto niente. Adesso non è che siamo arrivati chissà dove, però tutte le volte che suoniamo abbiamo il nostro pubblico, anche se usciamo da Bologna, anche se quando ci muoviamo in Veneto abbiamo tanti ascoltatori, tante persone che comunque ci vengono a salutare, si ritrovano, si divertono, siamo un po' una grande famiglia itinerante, facciamo divertire tutti, ci mettiamo quello che siamo veramente, e si vede, noi sul palco siamo come siamo fuori, cioè carichi, ci crediamo, diamo tutto, se il palco è grande ci muoviamo, se il palco è piccolo ci muoviamo lo stesso, caschiamo per terra, spacchiamo tutto. Sfondiamo il palco. Abbiamo sfondato vari palchi, sudato, ha fatto un mazzello. Sì, che è molto rock and roll, diciamo, dai. Sicuramente, sicuramente. I nostri show comunque sono poi basati poi sulla maggior parte sull'energia, sulla su comunque con il l'interazione con il pubblico, e di questo dobbiamo ringraziare il nostro cantante, che comunque si sbatte sempre moltissimo per cercare. Lui si sbatte con le fighe più che altro. Vabbè, su questa cosa lo sai che non si può parlare male dei non presenti. E invece sì, lo faremo allora, ampiamente. Va bene, ma parliamo male dei non presenti. Sì, effettivamente se diciamo la prima fila è femminile, si muove molto di più. Bene, dai. Andando avanti di 4 anni, arriviamo alla Disco Force It degli UFO, nel gruppo guidato da Phil Mogg e Pete Way. Già da un paio d'anni è entrato il giovane chitarrista Michael Schenker, che dà alla band il salto di qualità che le mancava per poter arrivare al successo. La canzone si intitola Love, Last Love. Con Michael Schenker ho letto che avete avuto un'esperienza qualche anno fa a contatto diretto, raccontateci. Sì, sono stati 3 giorni con 3 concerti veramente accattivanti, uno al Field vicino a Carpanto Piacentino, poi facciamo Milano, poi dopo andiamo a Bologna mi pare, però lui, come dicevo prima, insomma fuori onda, abbiamo suonato anche con gli UFO quest'estate, che sono comunque ancora una band veramente in forma, con Vinnie Moore alla chitarra, un certo chitarrista cantante spacca. Michael Schenker in quel periodo lì era un po' messo in un angolino, era un po' sfavato, non aveva voglia di fare niente, non aveva voglia di suonare, non parlava con nessuno, dormiva steso per terra sempre, era distrutto, capito? Distrutto, mamma mia. Probabilmente avrà patito il confronto con te, Amos. Sono convinto che sia per quello. Avrai distrutto. Ma adesso non è che sto molto meglio, neanche io. Insomma, dai, succede. Appunto, parlando di grossi nomi della vostra carriera, finora avete suonato in opening act per grandi personaggi della storia dell'hard rock e heavy metal. Come è stato vederli da vicino e se avete avuto modo di poter ricevere dei complimenti da loro? Guarda, è stato molto bello perché capisci da vicino come le persone sono, perché finché le vedi da lontano ti rimane sempre un margine di incertezza che non è mai fedele a quello che è una persona veramente. Molte di queste persone che abbiamo conosciuto, come Paul Di'Anno, come lo stesso Michael Schenker, come Udo, abbiamo suonato qua al Valpolicella nel qualche festival, anno fa, qualche anno fa, abbiamo suonato ma veramente con tanti, adesso non mi ricordo neanche tutti, però Blaze Bailey, esatto, abbiamo fatto il tour quest'anno con Blaze Bailey, il cantante ex cantante degli Iron Maiden. Insomma, persone, guarda, più grandi sono stati, più grandi cosa hanno fatto, più sono tranquille, amano anche ascoltare chi suona prima di loro, capire quello che tu hai da proporre. Molti li rivediamo e magari hanno ascoltato il CD, ci dicono qual è il pezzo che hanno preferito. Tipo quando andavamo via Big Ditch erano tutti appassionati da questa canzone che facevamo allora, che si chiamava Heavy Metal, che aveva un ritornello molto semplice che diceva sempre Heavy Metal, però piaceva, piaceva Paul Diano, me lo ricordo. Ma guarda, sono, e poi c'è tanto da imparare da queste persone, ci stai vicino e impari quello, anche dalle piccole cose, come mettono gli strumenti sul palco, come si preparano, come si scaldano, come si atteggiano, quando si devono atteggiare, quando sono tranquilli. Chiaro che se sta compogliando e si beve tutte le sere una bottiglia di José Cuervo, dopo un mesetto non è facile. Siete distrutti. Sì, con Blaze invece ti dico, lui voleva bere del vino rosso, ma lì l'abbiamo staggato noi. Cioè, lì beve la birra va bene, ma sennò, esatto, sennò è fatica. Però per raccontarti come sono questi personaggi, con Blaze abbiamo instaurato un rapporto talmente bello che dopo che siamo tornati indietro dal tour, quest'anno a luglio, giusto Amos? Sì, abbiamo sì. Suonato giù a Cupra Marittima in un festival dove c'erano anche loro. E ti posso assicurare che mentre stavamo suonando, noi facevamo da opening act, quindi prestino, e lui suonava tipo due gruppi dopo di noi, credo. A un certo punto ci siamo girati, c'era Blaze che stava tirando i tappini delle bottiglie di acqua minerale, tappini di plastica, al nostro batterista dal dietro il palco. Ma così per scherzare, pazzesco. Poi ti dico, guarda, quando abbiamo stato qui, abbiamo avuto in mente adesso velocissimamente con i Rage, abbiamo fatto tre date con Mike, c'era ancora Mike Terrana, Peewee e Smolsky, cioè musicisti strepitosi ma personaggi proprio tranquillissimi. Con Terrana, quando vive in Italia, vive a Pisa, ci si becca anche ogni tanto, è polleggiatissimo, guarda. Vediamo allora la seconda parte con i Black Sabbath, fuori Ozzy nel 1979. L'anno successivo entra a Transfuga dai Rainbow il cantante Ronnie James Dio, per un disco come Heaven and Hell che segna un breve rilancio per la band di Birmingham. Da quel disco il brano Neon Nights, noi ci ritroviamo per la terza e quarta parte, quando ascolteremo i brani del disco dei Rain, Dead is Dead. Non mancate! Oh yeah!